me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner. Sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. In the KGB, so no funny business. Are you already are. Buongiorno a tutti e a tutti, nuova puntata di Senza Frontiere, la rubrica di Radio Wombat che parla appunto di quello che dà uno sguardo a quello che succede un po' fuori dai confini nostri, e quello dà in una forma che è la stessa forma, diciamo, con cui diamo lo sguardo, con comunque facciamo le nostre cose, cioè privilegiando le situazioni che cercano di portare avanti iniziative cooperative, forme di aggregazione dal basso in qualsiasi parte del mondo essi siano. E da questo punto di vista ci spostiamo in Latin America, precisamente in Guatemala, dove da diverso tempo, poi ce lo facciamo raccontare da uno dall'intervenuto questa trasmissione, dall'ospite di oggi a questa trasmissione, dove da diverso tempo un gruppo di ex-guerriglieri guatemaltechi che si opponevano al regime del periodo in Guatemala hanno costituito un'associazione e successivamente una cooperativa denominata Nuovo Orizzonte. È situata da un punto di vista fisico nel nord del Guatemala, vicino alla regione del Petén, vicino a quelli che sono tra i siti turistici, diciamo così, più conosciuti del Guatemala, in particolare Tikal, che è una delle meraviglie Maya, diciamo uno dei resti delle meraviglie Maya del Guatemala, e dichiarato patrimonio anche dell'UNESCO, e Flores, che è una cittadina lì vicina. Ecco, a sud di questa zona si trova la cooperativa di Nuovo Orizzonte, e cominciamo fin subito a parlare con con chi a Nuovo Orizzonte c'è stato fino dall'inizio, fino dai primi tempi, diciamo, in cui si è costituita la cooperativa, ai primi tempi un po' difficoltosi, diciamo, da un punto di vista della costruzione di tutto quello che occorre per portare avanti una cooperativa. E vi ricordiamo che siete all'ascolto di Senza Frontiere, la trasmissione di Wombat, che va in onda tutti i lunedì in diretta alle 13.30 e dal martedì al venerdì sempre in replica, sempre alle 13.30. Vi ricordiamo, la potete ascoltare in streaming al sito Wombat, anzi la state ascoltando in streaming al sito wombat.blogs.org. Dallo stesso sito potete scaricare i podcast, i vari podcast delle varie trasmissioni Senza Frontiere, così come di tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat, andando alla sezione apposita, quella dei podcast. Per comunicare con noi, ricordiamo la mail postawombat@insiberia.net. Abbiamo anche un account Twitter, twitter.com/radiowombatfi. E appunto chiediamo a chi c'è stato, appunto, come un'introduzione, ecco, un antecedente, quello, diciamo, che ha preceduto la costituzione di questa cooperativa. Sì, ciao a tutti. Prima appunto di entrare più nello specifico della cooperativa Nuovo Orizzonte, delle sue caratteristiche, delle sue forme di organizzazione, forse vale la pena fare una brevissima premessa per inquadrare degli aspetti della storia del Guatemala recente che poi permettono di capire come si è arrivati a questa realtà di Nuovo Orizzonte. Intanto, in termini molto generali e molto sintetici, il Guatemala, come sostanzialmente tutti o gran parte dei paesi dell'America Latina, in particolare del Centro America, fin dagli anni successivi all'indipendenza dal colonialismo spagnolo, è sempre stato considerato dai governi degli Stati Uniti come, secondo l'espressione conosciuta, il cortile di casa. Questo ha significato sostanzialmente un controllo strettissimo sia da un punto di vista politico sia da un punto di vista economico, con lo sfruttamento integrale delle risorse del paese a vantaggio delle multinazionali statunitensi. Un meccanismo di dominio che si basava sull'accordo con l'oligarchia locale, con l'oligarchia nazionale guatemalteca, essenzialmente una oligarchia composta di grandi latifondisti, di grandi proprietari terrieri, circa un 2% della popolazione, che controllavano l'80-90% delle terre coltivabili. Un'oligarchia che, come appunto è avvenuto in gran parte dei paesi del Centro America e dell'America Latina, ha sempre considerato il paese e lo Stato come un proprio affare privato e ha sempre tenuto in piedi e portato avanti dei regimi basati su forme di oppressione, di sfruttamento estreme della maggioranza della popolazione contadina e naturalmente di esclusione sia politica che sociale. E in Guatemala la questione della terra, della proprietà della terra, della possibilità dell'accesso alla terra da parte di una popolazione che a lungo è stata in grandissima maggioranza contadina, quindi c'è questo problema della terra, è stato sempre un problema in modo centrale della lotta di classe, dei conflitti sociali e politici del paese. In più, un'altra specificità del Guatemala è che la maggioranza assoluta, circa un 60% della popolazione, appartiene ai popoli originari, quindi essenzialmente al popolo Maya o ai popoli Maya. Questo ha significato storicamente, da parte dell'oligarchia dominante del paese, che all'oppressione, allo sfruttamento di classe si è aggiunto sempre anche una forma fortissima, violentissima di discriminazione su base etnica, razziale, di razzismo, di esclusione su base razzista. Ora, questo sistema di dominazione interna e esterna tra governo degli Stati Uniti e multinazionali statunitensi e oligarchia locale ha conosciuto una breve interruzione, una breve parentesi di circa 10 anni tra il 1944 e il 1954, quando in seguito a quella in cui famosa, anche conosciuta perché ha avuto un apporto anche un rivoluzionario, e poi andò a Cuba, no? Successivamente. Sì, esatto, in particolare secondo, in questi 10 anni si alternarono 2 governi, 2 presidenti, il secondo in particolare, Arbenz, il governo Arbenz venne rovesciato nel 1954 da un colpo di Stato organizzato dalla CIA e dagli Stati Uniti. Ma negli anni della sua permanenza al governo fu un'esperienza che attirò l'attenzione, le simpatie e anche la partecipazione diretta e solidale di molti latinoamericani che arrivarono nel paese da diversi paesi. Tra questi è interessante ricordare che c'è stato anche il CE del 53, quando parte per il suo secondo viaggio dopo la laurea, va rapidamente in Guatemala proprio per andare a conoscere questa esperienza di governo che stava affermando da un lato una sovranità nazionale, un'indipendenza nazionale, una riappropriazione sia dell'indipendenza politica sia anche della gestione e del controllo delle sue risorse, ma era anche un governo che stava portando avanti delle riforme sia in campo democratico, aprendo alle libertà sindacali, alle libertà politiche, alla libertà di organizzazione e via dicendo, ma stava anche iniziando a portare avanti un processo di riforma agraria. Un processo di riforma agraria che, seppur parziale, però andava a intaccare anche parte delle terre di proprietà di una grande multinazionale statunitense, che è United Fruit Company, motivo per cui, o uno dei motivi per cui il governo degli Stati Uniti decide di rovesciare il governo Arbenz con un colpo di Stato militare. Ora, questa esperienza, questa è una notazione così, faccio tra parentesi, per il CE fu estremamente importante dal punto di vista della sua maturazione politica e della sua formazione politica, perché da un lato ebbe l'occasione di toccare con mano il fatto che gli Stati Uniti erano disposti a tutto pur di impedire che i paesi dell'America Latina intraprendessero dei percorsi appunto di autonomia e di indipendenza nazionale, pur non essendo il governo Arbenz assolutamente un governo di carattere socialista. E dall'altra parte l'esperienza che fece è che il governo in carica, di fronte al colpo di Stato, di fatto accettò di cedere e rifiutò di dare le armi alla popolazione per provare a mettere in piedi una difesa popolare armata delle esperienze del governo. E questo, naturalmente, dal punto di vista del CE, fu sicuramente uno degli elementi che gli fece maturare, diciamo, la sfiducia nella possibilità di percorsi esclusivamente istituzionali per l'indipendenza dei paesi latinoamericani dall'imperialismo statunitense. Ora, per farla breve e arrivare più velocemente vicino al nostro argomento, fu proprio il colpo di Stato del 54 e l'instaurazione di un regime praticamente di... Cioè, da dopo, scusami, da dopo... Allora, diciamo che questa esperienza viene soffocata nel sangue. Da quel momento fino agli anni 90, diciamo, c'è tutto un susseguirsi di dittature sostanzialmente, e conseguentemente c'è azioni, diciamo, di contrasto a queste dittature che tra l'altro si sono accanite in una maniera pazzesca, diciamo, sulla popolazione, ecco, non proprio stragi, ecco, da questo punto di vista. Quindi la scelta della lotta armata era dettata anche da una sorta di autodifesa, ecco, diciamo, rispetto a quelle erano, cioè, non soltanto un voler conquistare un qualcosa legittimo, ecco, ma proprio per difendersi da quelli erano gli squadroni della morte. Sì, infatti, in seguito a questo colpo di Stato e ai regimi dittatoriali che vengono instaurati, che parte della sinistra guatemalteca, delle forze popolari guatemalteche, decidono di organizzarsi sul piano della guerriglia, appunto, e della lotta armata. A partire dal 1960 nasce la prima e la più importante delle organizzazioni guerrigliere guatemalteche, che sono le FAR, le Forze Armate Ribelli, che è un'organizzazione marxista e comunista che appunto inizierà la lotta armata nel 60 e la porterà avanti fino agli accordi di pace del 1996. Nel frattempo, nel corso di questi decenni, dalle FAR, in seguito a scissioni e rotture varie, nasceranno anche altre organizzazioni guerrigliere che negli anni 80 si costituiranno in una sorta di coordinamento, che sarà l'Unità Nazionale Rivoluzionaria Guatemalteca. Ecco, prima di ripercorrere, ecco, questa parte che è quella più vicina, diciamo, a quella che poi sarà la Costituzione di Nuovo Orizzonte, quella a cui parteciperanno quelli che poi saranno gli animatori, diciamo, dell'operativa Nuovo Orizzonte, ti voglio chiedere una cosa in particolare. Il Guatemala è se non la principale nazione, diciamo, stato del centro e Sud America, che è composto è composto tuttora da nativi, cioè con una popolazione in cui c'era una grossa percentuale di popoli, ecco, di etnie locali, insomma, no? Che derivavano da erano, diciamo, i figli di quelli che erano gli abitanti del Guatemala prima ancora dell'avvenuta dell'invasione bianca, insomma, degli spagnoli, ecco. Quindi anche questa contraddizione, insomma, no? All'interno di questa contraddizione, anche questa componente all'interno di questa lotta, o comunque della storia del Guatemala, ecco. Sì, sicuramente, come si diceva prima, la popolazione Maya, appunto la popolazione di origine Maya in Guatemala è un'eccezione per l'America Latina, è una maggioranza assoluta, mi sembra sia intorno al 60%. Oltre ad avere da sempre vissuto come popolazione contadina condizioni di sfruttamento, di oppressione estreme, ha anche subito da parte dello Stato, da parte dell'esercito, da parte dei latifondisti bianchi, anche una fortissima discriminazione, una fortissima forma di razzismo, di disprezzo, di esclusione, che ovviamente ha, diciamo, ancora più accentuato le violenze su questa parte della popolazione e la necessità di una risposta forte, di rispondere, di difendersi. Ecco, siamo nel tuo excursus, diciamo, storia, siamo arrivati al momento in cui, diciamo, viene formata una forza guerrigliera abbastanza coesa, abbastanza importante, sia da un punto di vista degli ideali, sia dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Quelli, diciamo, che poi dopo sono gli animatori, i principali fautori, diciamo, dell'operativa, come si collocavano all'interno di questa situazione, ecco. Sì, allora, i fondatori della cooperativa e i soci, la grandissima parte dei soci della cooperativa, sono stati tutti i combattenti delle FAR, di questa organizzazione che dicevamo, le Forze Armate Ribelli, con percorsi in molti casi anche molto lunghi, di 15 anni di militanza e di vita e di combattimento all'interno della guerriglia, con vari ruoli, dal semplice combattente ai comandanti di fronte, tenenti, capitani e via dicendo. Aggiungo un dato anche numerico, quantitativo, per capire, rispetto a quello che dicevi tu prima, sugli anni della repressione, dei massacri che ci sono stati negli anni della guerra civile, no? In questi circa 36 anni di guerra civile tra il 60 e il 96. Si parla di circa 300.000 morti e di 50.000 e più desaparecidos su una popolazione del Guatemala che oggi è intorno ai 12-13 milioni di abitanti e che allora probabilmente non superava i 10. Quindi, e non a caso si è parlato anche da parte dell'ONU di genocidio nei confronti del popolo guatemalteco. Genocidio naturalmente portato avanti dai governi locali con la direzione, l'appoggio, il finanziamento e l'armamento dei governi degli Stati Uniti. Quindi genocidio come strategia di controinsurrezione, di controguerriglia. Si dice sa dare il pezzo 2 prima? Sì. Allora, naturalmente per una parte o per una gran parte dei contadini che sono entrati nella guerriglia, che sono entrati nelle FARC, che oggi fanno parte della cooperativa Nuovo Orizzonte, come forse si è già accennato, fu una scelta obbligata quella di inquadrarsi nella guerriglia, quella di passare alla lotta armata, nel senso che vivevano in comunità, in villaggi, erano appunto soggetti ai massacri, alle stragi, alle incursioni da parte dell'esercito o da parte delle forze paramilitari, e l'alternativa era quella di morire o provare a organizzarsi, a resistere, e loro questo più volte lo sottolineano e lo spiegano. Ora, magari sentiamo qualche... Sì, abbiamo... ...intervista. Chi è stato, appunto, chi sta parlando, chi ha parlato fino adesso è stato, come abbiamo detto precedentemente, laggiù, e ha raccolto interviste, e di cui durante la trasmissione vediamo alcuni spezzoni. Questa è la premessa al primo pezzo, vi facciamo sentire, parla direttamente... Sì, parla Romy in questo primo pezzo, che è stato il capitano delle FARC ed è stato per diversi anni il presidente della cooperativa. Nos fuimos a la montaña porque nos vimos obligados, que éramos perseguidos por los grupos paramilitares como el Escuadrón de la Muerte, el Ejército y los comisionados militares. Entonces, antes de integrarnos a la montaña, a muchos nos tocó que salir a dormir al monte. Dejábamos a nuestros hijos en la casa, salíamos a dormir a los guatales, a los cementerios. En la mañana llegaban, era cuando nosotros creíamos tener más seguridad, porque en la noche desaparecían muchas gentes, ¿verdad? Entonces, así fue como nosotros, muchos, como decía, hombres y mujeres, tuvimos que agarrar la montaña, sin saber cómo era hacer una lucha armada, hacia dónde querían llegar, inexpertos en muchas cosas, de cómo vivir en la montaña directamente, inexpertos en saber esa doctrina, el por qué íbamos a luchar y contra de quién. Sí, ahora en realidad esta breve pezzo di intervista che abbiamo ascoltato non era Romy, ora lo ascolteremo a breve, era Juan, un altro compagno della cooperativa Nuovo Orizzonte, un altro ex combattente guerrigliero. Ora possiamo appunto magari sentire un altro breve contributo di Romy, appunto come dicevamo prima è stato soprattutto nei primi anni presidente della cooperativa, anche lui diciamo dice alcune cose sull'esperienza della lotta armata. Algo muy importante de Nuevo Horizonte es de que no somos una comunidad común y corriente dentro de Guatemala. Nosotros somos como el rezago del pensamiento de nuestros padres, que en alguna ocasión pensaron que podría existir una Guatehuela. Históricamente Guatemala ha venido viviendo dictadura tras dictadura. Nosotros soñábamos de hacer cambios en Guatemala a través de la vía violenta. Ese camino no era el deseado del pueblo guatemalteco, sino que simple y sencillamente era la única alternativa para poder sobrevivir. Allora, per arrivare un po' a concludere le premesse che hanno portato alla nascita della cooperativa, nel 96, dopo una lunga fase di negoziati tra la guerriglia e il governo, si arriva alla firma degli accordi di pace. Accordi di pace che prevedevano tutta una serie di misure, di riforme, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista sociale, compreso degli elementi di riforma agraria, e prevedevano naturalmente la reincorporazione dei guerriglieri nella vita civile. Come spesso succede, come in parte si sta vedendo anche in questi mesi, per esempio in Colombia, con l'accordo di pace tra il governo colombiano e le FARC, diciamo l'applicazione, il compimento di questi accordi è stato molto da parte del governo, da parte delle forze e comunque dell'oligarchia, che comunque si erano mantenuti al potere in tutti questi decenni. È stata un'applicazione molto molto parziale, molto contrastata, e per gli aspetti più rilevanti, più sostanziali dal punto di vista politico e sociale, si può dire che l'applicazione degli accordi di pace non c'è stata. Questo ha significato che i guerriglieri smobilitati in qualche modo hanno dovuto, in un contesto estremamente difficile ed estremamente ostile, e essenzialmente da soli, organizzarsi su un nuovo piano, un nuovo terreno di lotta, di iniziativa, e al tempo stesso organizzarsi da un punto di vista delle loro condizioni di sussistenza, di sopravvivenza, che naturalmente venendo da, come si è detto, chi 15, chi 10, chi 6 anni di guerriglia, non avevano nell'immediato nessun tipo di prospettiva dal punto di vista lavorativo, produttivo e via dicendo. Ed è da qui che nasce, che si innesca il progetto della, che poi porterà alla nascita e poi a tutto lo sviluppo e il consolidamento della cooperativa nell'orizzonte. Ecco, come è avvenuto in termini concreti, ecco, questo passaggio? Allora, in termini concreti, una volta avvenuta la smobilitazione, la consegna delle armi, i combattenti delle FARC del fronte nord, quindi i combattenti principalmente, non esclusivamente, ma principalmente, che si trovavano a combattere nella regione del Petén, che citavi prima all'inizio della trasmissione, e innanzitutto scelgono di restare insieme, di restare uniti. Ci sono state delle decisioni particolari rispetto a questo? Qualcuno ha deciso di fare altre cose? Com'è che si è determinato quel numero e quel gruppo di persone? Allora, guarda, per quanto ne so, per quanto insomma ci hanno sempre spiegato e raccontato loro, si può dire che la grandissima maggioranza dei combattenti smobilitati ha fatto questa scelta di restare uniti e di restare in una dimensione organizzata, diciamo, e collettiva. Poi sicuramente ci può essere stato qualcuno che a livello individuale ha fatto la scelta di provare a fare una sua strada, di ritornare dalla famiglia che ancora poteva avercela, però sicuramente la stragrande maggioranza, quasi la totalità degli ex combattenti, almeno di quelli, ripeto, del fronte che combattevano nel fronte del Petén, nel fronte nord, ha fatto questa scelta di restare uniti. E ci sentiamo un altro estratto da questa intervista in cui appunto viene i protagonisti parlano, diciamo, della nascita, ecco, di Nuovo Orizzonte. Realmente Nuevo Horizonte nace después de la desmovilización de los diferentes frentes guerrilleros que están contemplados en los acuerdos de paz. Sí, porque los está criando a los dos. Es la que quedó huérfana, pero mira cómo está. Es la que más se murió allá en el costado. Nuevo Horizonte se compone de diferentes grupos guerrilleros que estaban en diferentes frentes de combate, diferentes columnas. Entonces, con la firma de los acuerdos de paz en el año 96. Facendo una breve, brevissima storia, cronologia, loro si insediano in un terreno di circa, che è quello poi attuale della cooperativa, di circa 900 ettari. Inizialmente hanno delle promesse da parte del governo, da parte delle entità anche internazionali, delle Nazioni Unite, che facevano da intermediari e da osservatori sul rispetto degli accordi di pace, hanno delle promesse sul fatto che avranno assegnata questa terra, sul fatto che avranno finanziamenti per poter iniziare a viverci, a produrre e via dicendo. In realtà sostanzialmente loro non ottengono niente, ci si insediano in un certo senso come occupanti, in questo terreno non c'è assolutamente nulla, loro sono costretti per molto tempo, per molti mesi, a vivere praticamente sotto tele di plastica, seminare in modo estremamente elementare e difficoltoso gli alimenti base, mais, fagioli per sopravvivere, e iniziano uno sforzo come prima cosa per realizzare le case, naturalmente, dove poter insediare in modo, insomma, più vivibile le famiglie. Quindi il primo sforzo è concentrato, oltre che appunto sulla coltivazione degli elementi della sopravvivenza immediata, sulla costruzione delle case. Naturalmente parliamo di case non nel senso in cui possiamo immaginarlo noi, ma di case realizzate con strumenti estremamente poveri, estremamente rudimentali, quindi un po' di mattoni grezzi, tetti di lamiera, delle piccole case che però gli consentono innanzitutto di uscire da una situazione praticamente insostenibile e invivibile, appunto vivere in dimensione di climi tropicali, di piogge tropicali sotto teli di plastica con appunto bambini e via dicendo. Quanti elementi erano presenti? Quanti elementi hanno Allora, dato vita alla... alcune centinaia nell'insieme tra ex combattenti, famiglie, figli, eccetera, alcune centinaia. Più o meno anche oggi la dimensione di numero delle persone che vivono nella cooperativa è di circa 500. Quindi diciamo una comunità abbastanza consistente. La seconda cosa dopo le case, alla quale danno fin da subito una priorità, è la scuola. Quindi subito dopo aver realizzato le case, forse contemporaneamente, si dedicano a realizzare la scuola, che poi avrà uno sviluppo molto, molto importante, molto significativo, e sicuramente si può considerare una delle realizzazioni più importanti a cui è arrivata la cooperativa. Ma inizialmente la scuola significa un asilo nido, quindi un asilo nido significava da un lato permettere alle famiglie di poter lasciare i bambini e poter lavorare. E dall'altro significava anche, avendo i bambini ogni giorno, ogni mattina nell'asilo, attraverso lo sforzo collettivo, garantirgli almeno un pasto, diciamo basato su un'alimentazione più sana. Finisce qui la prima parte dell'intervista su Nuovo Orizzonte. La prossima puntata, la seconda parte. Ciao ciao.